L'Italia è davvero capace di produrre in maniera eccellente prodotti molto diversi tra di loro. C'è una sensibilità da parte degli italiani, c'è un desiderio, una passione di produrre cose belle, cose buone, cose esteticamente apprezzabili. E questo, secondo me, è il filo conduttore che riunisce queste presenze qui alla Campionaria di Milano. E quindi è un'unità nella molteplicità, perché poi l'Italia non è soltanto prodotti diversi, vino, cultura, paesaggio, macchine, ma l'Italia è anche territori diversi. Ma vogliamo confrontare la Sicilia con la Valle d'Aosta? Vogliamo mettere, non so, vicine la Toscana con il Friuli Venezia Giulia? Cioè sono tanti piccoli micro territori in grado di esprimere prodotti con una loro personalità e dunque la molteplicità. Ma queste piccole realtà spesso hanno bisogno di una strategia di comunicazione ad hoc. Il piccolo non può farsi strada nel mondo della globalizzazione. Il piccolo ha bisogno di un marchio, di un cappello che oggi chiamiamo Made in Italy. Però stiamo attenti. Made in Italy non è soltanto qualcosa che è fatto in Italia, il Made in Italy deve essere qualcosa che include altri valori, una produzione sostenibile che rispetta l'ambiente, che vuole salvaguardare il territorio, che lo vuole valorizzare, una produzione che ha un'attenzione al sociale, alla sicurezza sul lavoro. Dobbiamo, a mio avviso, riempire di valori nuovi il concetto di Made in Italy e allora continueremo ad essere vincenti nel mondo. Valori che poi si traducono nella sostanza in quale azione? Ma le aziende devono investire al di là del loro core business. Donna Fugata, ad esempio, persegue la qualità dei suoi prodotti, ma non è sufficiente. Dobbiamo andare al di là dei nostri confini, dobbiamo assumerci delle responsabilità. La crescita culturale del territorio, noi parliamo di Sicilia e c'è tanto da fare, la valorizzazione di alcuni patrimoni artistici del nostro territorio. Oggi si cercano sempre più sponsorizzazioni da parte dei privati, anche nella cultura. Le aziende devono fare questo, devono essere partecipi dello sviluppo del territorio oltre il compito strettamente produttivo. La responsabilità sociale è una sigla che raccoglie un po' tutto questo atteggiamento costruttivo ed è un tipo di valore che all'estero è sempre più sentito. I nostri consumatori all'estero vogliono sapere che noi facciamo prodotti made in Italy, ma che noi siamo aziende responsabili socialmente. Mi parla di estero, di Made in Italy, c'è cioè il problema della contraffazione, contraffazione che ormai, per la verità da qualche anno, è arrivato anche sulle tavole, c'è cioè la contraffazione alimentare. La contraffazione mi dicono che sia una bruttissima bestia, nel senso che gli italiani poi sono tra i più abili contraffattori dei loro prodotti, no? Quindi vogliamo parlarne, insomma, chi è che fa la contraffazione più grave, più dannosa per i produttori italiani? E non c'è dubbio, è un problema grosso e ci vuole presenza.